Canto decimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto decimo. Poi fummo dentro al soglio della porta che il malo amor dell'anime disusa, perché fa parer dritta la via torta, sonando la sentì esser richiusa. E s'io avessi gli occhi volti ad essa, qual fora stata al fallo degna scusa? Noi s'alevam per una pietra fessa, che si muoveva d'una e d'altra parte, sì come l'onda che fugge e s'appressa. Qui si convien usare un poco d'arte, cominciò il duca mio, in accostarsi or quinci or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi ed aperti, là dove il monte indietro si rauna, io, stancato ed ambedue incerti di nostra via, ristemmo su un piano solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, a piede l'alta ripa che pur sale, misurrebbe in tre volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio potea trar d'ale, or dal sinistro ed or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non eran mossi i piedi nostri anco, quando io conobbi quella ripa intorno, che dritto di salita aveva manco, esser di marmo, candido ed adorno di intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto del molt'anni lagrimata pace, ch'aperse il ciel dal suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che il dicesse ave, però chi vi era immaginata quella ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave ed avea in atto impressa esta favella ecce ancilla dei sì propriamente come figura in cera si suggella. Non tener pur ad un luogo la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore ha la gente. Perch'io mi mossi col viso e vedea di retro da Maria per quella costa onde m'era colui che mi muovea un'altra istoria nella roccia imposta. Perch'io varcai Virgilio e femmi presso acciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e i buoi traendo l'arca santa perché si teme ufficio non commesso. Dinanzi parea gente e tutta quanta partita in sette cori a due miei sensi faceva dir l'un no l'altro sì canta similmente al fumo degli incensi che v'era immaginato e gli occhi e il naso e dal sì e dal no discordi fensi. Lì precedeva al benedetto vaso trescando alzato l'umile salmista e più e men che re era in quel caso di contro effigiata d'una vista d'un gran palazzo Micola ammirava sì come donna dispettosa e trista. Io mossi piede il luogo dov'io stava per avvisar da presso un'altra storia che di retro a Micol mi biancheggiava. Quivi era storiata l'alta gloria del roman prince, lo cui gran valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. I dico di Traiano imperatore, ed una vedovella gli era al freno, di lagrime atteggiata e di dolore. D'intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, e l'aguglie nell'oro sovresse in vista al vento si movieno. La miserella infra tutti costoro parea dicer: «Signor, fammi vendetta del mio figliuol che è morto, ond'io m'accoro». Ed egli a lei rispondere: «Ora aspetta tanto ch'io torni». E quella: «Signor mio», come persona in cui dolor s'affretta, «se tu non torni». Ed el: «Chi fia dov'io la ti farà». Ed ella: «L'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio?» Ond'elli: «Or ti conforta, che conviene che io solva il mio dovere anzi che io muova. Giustizia vuole e pietà mi ritiene». Colui che mai non vide cosa nuova produsse sto visibile parlare: «Novello a noi, perché qui non si trova». Mentr'io mi dilettava di guardare l'immagine di tante umilitadi e per lo fabbro loro a veder care, ecco, di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei, che erano intenti, per veder novitadi, onde son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa la successión, pensa che a peggio, oltre la gran sentenza, non può ire. Io cominciai: «Maestro, quel che io veggio muovere a noi non mi sembran persone, e non so che, se nel veder vaneggio». Ed egli a me: «La grave condizione di lor tormento a terra di rannicchia, sì che miei occhi pria nebber tensone. Ma guarda fiso là, e disviticchia col viso quel che vien sotto quei sassi. Già scorger puoi come ciascun si picchia. O superbi cristian, miseri, lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei ritrosi passi. Non v'accorgete voi che noi siam vermi, nati a formar l'angelica farfalla, che vola la giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla? Voi siete quasi entomata in difetto, sì come verme in cui formazion falla. Come per sostentar solaio tetto, per mensola talvolta una figura si vede giunger le ginocchia al petto, la qua fa del non ver vera rancura nascer a chi la vede, così fatti vid'io color quando posi ben cura. Vero è che più e meno eran contratti, secondo che avean più e meno addosso. E qual più pazienza avea, negli atti piangendo parea dicer: «Più non posso». Fine del canto decimo.